La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 50 secondi qui in diretta dagli studi, tornata assolata a Milano di Radio 24. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto diretto in podcast della versione di Oscar, qui Oscar Giannino, e vi dice subito di cosa parliamo oggi. In realtà io lo so che chiedervi di intervenire su questo al 99% dei casi significa dare un parere, lo dico col pieno rispetto per voi tutti, su un tema che tecnicamente non è alla portata praticamente di nessuno, se non di chi è un tecnico del settore. Perché parliamo di pasta, e in questo paese il grande consumo di pasta ovviamente è un tema di impatto generale, per così dire. Ma la domanda su cui ruoterà questa trasmissione è questa, relativa alla seguente vicenda. La vicenda è quella: se sia necessario, se sì perché, se no perché, prevedere una indicazione obbligatoria dell'origine per la filiera grano-pasta in Italia. Cioè, volete leggere sul pacco di pasta il grano da dove viene, come e perché? Questo interrogativo tecnico, ma che in realtà vuol dire tante cose, si incardina su un atto regolatorio. Qual è l'atto regolatorio? A fine dicembre, il 20 dicembre, quindi proprio ieri, il Ministero delle Politiche Agricole ha inviato a Bruxelles il primo schema di decreto. Quindi il ministro Maurizio Martina in concerto con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che introduce, sia pur in forma sperimentale, l'indicazione obbligatoria dell'origine per la filiera grano-pasta in Italia, e quindi questo atto è l'inizio di un iter autorizzativo per arrivare a un modello di etichettatura che indichi con chiarezza a chi compra e a chi consuma le confezioni di pasta prodotte in Italia l'area dove è coltivato il grano e quello è l'altra area in cui è macinato e lavorato. Naturalmente la giustificazione ufficiale che si legge nelle dichiarazioni del ministro Martina ieri, quando ha reso noto di aver inoltrato lo schema di provvedimento in Europa, è quella di dare massima trasparenza dell'informazione al consumatore, tutelare i produttori italiani, rafforzare la filiera strategica del Made in Italy agroalimentare. E l'Italia si mette così in testa, perché sarebbe la prima, il primo paese in Europa ad adottare un sistema di etichettatura di questo tipo qui, e naturalmente al contempo a chiedere che a Bruxelles, che anche gli altri paesi europei, vengano indotti a fare la stessa cosa. Qual è la questione di fondo? La questione di fondo è che in realtà, se da una parte è, come si vede in ogni indagine rivolta ai temi del consumo agli italiani, la percentuale degli italiani che dichiarano di volere piena trasparenza dell'indicazione d'origine di ogni prodotto alimentare, di che cosa è composto, di dove viene lavorato, eccetera, eccetera, eccetera, è elevatissima, cioè stiamo parlando di percentuali che vanno oltre il 90%, dall'altra parte il rischio è quello di ignorare un elemento fattuale di fondo, o per meglio dire, non solo di ignorarlo, ma di bollarlo con qualche pregiudizio. Qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che in realtà noi siamo fortissimi importatori di tipi di grani che servono per fare proprio al meglio la pasta italiana, senza i quali non ci sarebbe la qualità elevata, riconosciuta nel mondo, ma è molto apprezzata ovviamente dai consumatori italiani nella storia, della pasta made in Italy. Ovviamente io mi sto adesso inoltrando in alcuni dati che poi sottoporremo in realtà all'opinione dei tecnici che abbiamo invitato per parlarvi dal loro rispettivo punto di vista di questa questione, e pur tuttavia, sin dall'inizio, è necessario che voi sappiate, appunto, che la produzione italiana di grano duro, quello che si usa per produrre la pasta, è più o meno 4 milioni di tonnellate, ma è in realtà poco più della metà del fabbisogno necessario a realizzare la pasta made in Italy, perché il resto è un grano di importazione, perché per produrre pasta di qualità bisogna miscelare le farine di grano duro con una quantità importante di quelli che si chiamano, in termini tecnici, grani di forza, no? Che sono usati anche per i prodotti da forno, biscotti, eccetera, eccetera, in miscela con le altre farine, e della cui produzione in Italia siamo carenti. Allora, su questa premessa, che però bisogna conoscere, si innestano diversi punti di vista, diversi e anche contrapposti, per così dire. Allora, per capire meglio se siamo in presenza di un'iniziativa, quella ufficiale del governo italiano, volta davvero a tutelare la filiera italiana, o se invece siamo in presenza di un atto che aggiunge però un elemento di Made in Italy che rischia di creare un grave problema, ma non solo a chi produce in questo modo la pasta nel nostro paese, perché sennò mi potreste accusare, stai tutelando gli interessi degli industriali della pasta. No, ma se questa questione, il mix di grani con una quota elevatissima di grani di importazione, costituisce il fondamento proprio della qualità della pasta made in Italy, voi capite bene che è un autogol da questo punto di vista. Oddio, spero di essere stato chiaro e chiedo scusa ai tecnici del settore se ho commesso qualche improprietà, però la domanda che vi faccio è, intanto dateci la vostra opinione, do per scontato che tecnicamente non siate proprio versatissimi, come non lo è nessuno, come non lo ero io, però magari voi invece di meglio nel saper distinguere il grano duro di forza dagli altri, e pur tuttavia diteci, sì, voglio l'etichettatura, oppure ma... Spiegateci meglio. Per parlarne però abbiamo invitato due ospiti, il presidente dell'associazione dei pastai italiani, l'associazione si chiama AIDP, Riccardo Felicetti, grazie di essere con noi presidente. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. E il responsabile economico della Coldiretti, che è storicamente, come devo dire, fortissimamente a favore invece della, di questa come di altre misure analoghe, Lorenzo Bazzana. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera, grazie. Allora, presidente Felicetti, al netto del fatto che naturalmente le consento e anzi la invoco di correggere qualunque stupidaggine tecnica io abbia detto, ci spiega un pochino qual è la vostra posizione, che pensate di questa iniziativa del governo italiano? Ma, allora, quello che riteniamo noi è che sia giusto indicare l'origine delle materie prime sulle confezioni. E questo penso che sia stato detto e ripetuto svariate volte negli ultimi anni e con toni estremamente pacati e corretti. Però partendo da un punto di partenza ovvio, e cioè se io devo dire che produco 30% della mia pasta perché non c'è abbastanza grano duro in Italia, con grano estero, e l'opinione pubblica è stata indirizzata nel pensiero che questo grano è scadente, è tossico e faccia male, allora giochiamo su due campi, su un campo che è minato e rischia di pregiudicare l'affetto che i consumatori italiani e i consumatori stranieri soprattutto hanno per il prodotto italiano. E questo va a pregiudicare tutta la filiera del grano duro italiano. Continuando, devo dire che questo decreto, così com'è, non assolve a nessuno dei vantaggi che proclama, perché non tutela la qualità del grano duro italiano, perché anzi rischia di pregiudicarlo, non ne tutela il valore, perché al diminuire del valore e del valore aggiunto che la pasta italiana avrà all'estero e in Italia, rischiamo addirittura di avere un boomerang. L'autogol, sì. E da questo punto di vista, secondo me, sarebbe stato molto più utile creare, come stanno facendo le aziende di loro iniziativa, una serie di accordi di filiera votati alla scelta delle materie prime giuste, alla valorizzazione di aree territoriali che possano sviluppare delle specie monovarietali tali da poter migliorare la qualità del prodotto e a rendere l'Italia davvero autarchica, passatemi il termine, senza bollare il grano duro straniero come cattivo e insano, perché questo crea grande confusione e rischia di creare, ripeto, disaffezione nei confronti della pasta. E io credo che nessuno di noi in questo momento, né dalla parte industriale, né dalla parte della molitoria, né tantomeno dalla parte agricola, è orientato a questo genere di destinazione. Allora, io ricordo a chi ci ascolta che noi stiamo parlando di un paese che è il paese che ha è il principale produttore mondiale di questa cosa particolare di cui siete tutti molto golosi, che si chiama la pasta, cioè stiamo parlando di 3,5 milioni di tonnellate, un valore della produzione che negli anni cresce, sta crescendo oltre 4,5 miliardi verso i 5 miliardi di euro, con un export che sta sui 2 miliardi, quindi stiamo parlando non proprio di una cosetta. Sentiamo invece la prima opinione di Lorenzo Bazzana di Coldiretti. Sì, innanzitutto per noi la trasparenza non è mai un autogol, nel senso che c'è un signore, italiano o straniero, che pagando tiene in piedi tutta una filiera, partendo dalle nostre aziende agricole, arrivando fino allo scaffale su cui la pasta viene posta, e questo signore ha diritto di sapere che cosa sta acquistando. Quindi il fatto della trasparenza è una battaglia che l'Italia e Coldiretti stanno facendo da anni in tutti i settori dell'agroalimentare, perché crediamo che comunque sia un valore. E quindi dare trasparenza a un settore, secondo noi, non è assolutamente un autogol. Questo è un primo principio che deve essere sancito, perché altrimenti le cose non dette, le mezze verità, ammantate sotto un'etichetta o magari facendo vedere dei campi che poi non corrispondono a quelli in cui viene coltivato questo prodotto, eccetera eccetera, secondo noi non sono quella trasparenza di cui ha diritto il consumatore italiano e straniero, e questo deve essere un primo punto. Un secondo punto deve essere quello chiaro, che deve essere chiarito, che il grano di per sé non è né buono né cattivo, dipende come viene coltivato, sia in Italia che in altri paesi. Quindi il grano buono, il grano duro di qualità, lo si può fare in Italia come lo si può fare anche in altri paesi. Chiaramente ci devono essere le condizioni economiche perché i coltivatori possano fare quelle azioni agronomiche necessarie per avere questo grano di qualità, il quale poi, essendo comunque a cielo aperto, può avere annate più buone e annate meno buone. Ad esempio quest'anno in Canada non è stata una buona annata, per andamento climatico, per altri problemi fitosanitari, eccetera, eccetera. Quindi, secondo punto, di per sé non è né eccezionale quello canadese, né straccio, mi scusi il termine, è quello italiano, né carente quello italiano. Dipende dall'andamento della stagione e se c'è appunto una condizione economica e tecnica per poter coltivare un grano di qualità. Ci sono ottime paste fatte già oggi, prima ancora che arrivi l'etichettatura, con 100% di grano duro italiano, che dimostrano che la pasta può essere fatta anche col grano duro italiano 100%. Poi, per carità, e su questo siamo d'accordo, abbiamo un problema di carenza, nel senso che non tutta la pasta che dobbiamo fare per poter soddisfare i mercati anche internazionali trova nel grano duro italiano la quantità sufficiente per soddisfare il mercato, e questo è indubbio. Terzo punto, per completare questo primo passaggio, la parità di condizioni. Giustamente Felicetti faceva un ragionamento rispetto all'immagine del prodotto, al fatto che non bisogna criminalizzare. Per carità, nessuno vuole criminalizzare. A noi però piacerebbe che alcune condizioni normative che impediscono, che vietano ai produttori italiani di utilizzare alcune molecole giustamente vietate perché ritenute tossiche, nocive per l'ambiente, nocive per gli operatori o in altri casi per i consumatori, non potessero essere utilizzate neanche in altri paesi. E questa è una cosa che alle volte invece accade e che crea una distorsione della concorrenza. Questi sono sono tre punti che a nostro modo di vedere sono fondamentali. Allora, io... trasparenza non è mai autogol. No, trasparenza non è mai autogol. Deve essere chiaro il concetto che il grano non è assolutamente vero che dobbiamo importarlo per migliorare quello italiano, perché quello italiano, quando è coltivato nella maniera adeguata, è a livello di tutti gli altri, e viceversa, quando quello degli altri non è coltivato in maniera adeguata, è più scarso del nostro. E terzo punto, parità di condizioni nella coltivazione. Allora, io su questo terzo punto, dopo il minuto di adesso interruzione per il traffico, l'informazione sul traffico, mi attacco proprio a questo terzo punto, perché è un po', secondo me, la questione sottostante. Io vedo di spiegarla per come l'ho capita agli ascoltatori, ma chiederò a entrambi subito dopo di dirmi, di correggermi e di dirmi la vostra opinione, perché il problema è proprio questo, la terza questione, perché le prime due sono affermazioni di principio che sottoscrivo, secondo me chiunque è ragionevole. La terza invece è il vero problema che, come sempre, si solleva nei confronti del commercio mondiale. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, siamo partiti da una decisione del governo italiano, sottoporre alla Commissione europea lo schema di una bozza di decreto per l'etichettatura piena ed esplicita delle provenienza e della molitura dei posti di lavorazione dei grani di cui è fatta la pasta. Abbiamo con noi l'associazione dei pastai e Coldiretti, e c'è questa questione di fondo. Siamo proprio sicuri che, oltre a soddisfare la iperlegittima esigenza di trasparenza per l'informazione del consumatore, non possa essere un autogol? Io torno al punto iniziale della mia introduzione, quello in cui ho appreso, io sto saccheggiando, lo dichiaro volentieri, come bisogna sempre fare quando si fa così, per capire, io ho letto un po' di letteratura scientifica, un po' di articoli, eccetera. In questo momento ho in mano una cosa scritta dal collega Jacopo Giriberto, che è comparso nel supplemento Scienza del Corriere della Sera. All'inizio, vi ricorderete, ascoltatori, vi ho detto: per fare l'ottima pasta italiana utilizziamo grano duro italiano e poi mescolato con farine di forza, che vengono usate anche con i prodotti da forno. Cosa sono queste farine di forza? Ecco, c'è un punto di fondo. Di forza perché? Ecco, da noi in Italia c'è poco grano duro di forza. Perché? Perché il frumento deve, sottolineo deve, per le norme che sono vigenti nel nostro paese, raccolto quando è a piena maturazione. Cosa vuol dire raccoglierlo quando è a piena maturazione? Cioè quando le piante sono seccate per la fine del ciclo vitale, che a quel punto i chicchi non hanno più la ricchezza di proteine, che hanno invece nel momento dell'apice, quello più vitale, che non è la piena maturazione, ma è precedente. Ecco. Quando cioè la massima concentrazione di proteine nel chicco c'è, la pianta del frumento è ancora verde e a quel punto non viene raccolta in Italia. Altrove, in altri paesi, Canada per esempio, visto che l'abbiamo citato, si interviene in quella fase. E come si fa per tutelare al meglio la ricchezza proteica del chicco? Si usano dei disseccanti, tra i quali il più diffuso è il glifosato. Diserbante efficace perché ha minore impatto ambientale, ci sono tonnellate di studi sul glifosato, penetra nel terreno per pochi centimetri, viene poi entro un certo periodo di tempo testato da innumerevoli ricerche, degradato completamente e rapidamente nei suoi cioè elementi costitutivi, e quindi viene meno il glifosato e la sua tossicità, viene degradato dai batteri naturali presenti nel suolo e riproducibili, come ovvio, in laboratorio. Ed è attraverso questo disseccante soprattutto che si produce quindi quel tipo di grano di forza che serve poi anche alla qualità del grano duro di produzione italiana, che però, come vi ho detto, per via delle diverse norme non conosce l'utilizzo di quei disseccanti. Ecco, il problema è che, secondo me, con la piena etichettatura e la dichiarazione da parte di produttori italiani di importazione da parte di paesi che usano queste tecniche e tecnologie, scatterebbe automaticamente l'accusa di utilizzare dei grani, tra virgolette, tossici. Mi sbaglierò, ma io temo questo. Che ne pensa il presidente Felicetti dell'Associazione dei Pastai? Allora, innanzitutto vorrei rifarmi un attimo alle dichiarazioni del dottor Bazzana di prima, perché non è vero che tutto il grano duro italiano è buono per fare la pasta, tutto nella stessa maniera. anche perché ci sono 200 specie monovarietali diverse di grano duro presenti in Italia, presenti in Europa, e ognuna ha delle caratteristiche ben precise di proteine, di glutine, di indice di glutine, che queste in funzione di dove vengono seminate e di come vengono gestite in campo hanno delle rese diverse in macinazione. Di conseguenza, se noi prendiamo la stessa specie varietale e la seminiamo in Toscana, in Maremma e in Sicilia, hanno rese ben diverse. La Sicilia storicamente ha una grandissima tenacia, un grandissimo indice di glutine, ma sostanzialmente delle proteine talmente scarse da non rispettare nemmeno quella che è la legge di purezza italiana, che è del 1967, cioè ben lontana da quelle che sono le discussioni di oggi, che ripeto molto spesso sono forse un attimino troppo eccessive. Sì. Detto questo, glifosato viene usato come disseccante, ma non è una prassi consolidata, bensì è una cosa che succede nelle annate in cui in Canada sì. si trovano delle situazioni in cui correnti di aria gelida, quando si arriva ad ottobre, novembre, pregiudicherebbero totalmente la maturazione. Le pratiche agricole canadesi sono diverse da quelle europee, ma non per questo i grani hanno più tenacia. È perché la terra è totalmente diversa. Ha subito 7 glaciazioni, viene gestita con rotazioni diverse ed ha sostanzialmente una ricchezza maggiore. E soprattutto le specie varietali, che sono pochissime, che vengono gestite in Canada, hanno una attinenza totale con quel territorio e solo lì possono crescere, perché Navigator, per esempio, in Italia non riesce non ad attecchire, non ha la stessa resa. Ma secondo quindi, lei il rischio non della... Non nascondiamoci dietro a questo. Lei mi dice si useranno sì. queste comunicazioni per inibire l'utilizzo di grano canadese. Non si utilizzeranno, già si utilizzano, esatto. purtroppo. Ed è questo che ci mette a disagio. Perché noi siamo trasparentissimi, vogliamo esserlo e vogliamo continuare ad esserlo. Però se io compro del grano canadese, lo uso perché lo compro biologico, ci faccio tutte le analisi, ci faccio tutti i miei controlli, so che è buono, salubre tutto e lo dichiaro che è un grano canadese. No, però ecco, avevo colto il punto, anche se come immaginavo tecnicamente ero stato impreciso, però che il rischio esista, ecco, non ce lo nascondiamo. Naturalmente io poi sono in ginocchio a chiedere scusa a Jacopo Gilberto, è del sole, mi è uscito il Corriere senza pensarci, sono già fuori la porta a picchiarmi, quindi mi prostro chiedendo scusa a Jacopo. Detto tutto questo, Bazzana invece come risponde? Questo rischio secondo lei esiste oppure no? Mi scusi, io prima recupero rispetto certo. a quello che ha detto Felicetti, perché io non ho assolutamente detto che tutto il grano italiano sia di qualità eccezionale o sia di qualità fenomenale in qualunque latitudine con qualunque varietà. Io ho detto che succede al grano canadese come succede al grano italiano, tanto è vero che quest'anno una parte del grano canadese verrà avviato alla utilizzazione mangimistica perché è di scarsa qualità, e Felicetti lo sa meglio di me. Quindi capita il grano italiano come può capitare il grano canadese. Sì. Il problema è un altro, la quantità di proteine è fortemente influenzata dalla concimazione. Sì. Se io ho un prezzo adeguato, faccio una concimazione frazionata in più momenti in modo tale che la cariosside venga alimentata in maniera adeguata, se così non è, magari faccio solo una concimazione e poi magari mi ritrovo basso di proteine. Ma questo, ripeto, è un merito tecnico troppo certo, dettagliato, certo, non, voglio, certo, esatto. non voglio entrare in questa discussione, perché, ripeto, non credo che sia no, interesse. Non poi. Arriva poi al pubblico. Però sul discorso glifosato, io non entro neanche nel merito del prodotto specifico, che è un prodotto che comunque è un diserbante che deve essere utilizzato in assenza di cultura. Sì. Cioè non rientra nell'utilizzo normale usare glifosato in presenza di cultura, anche perché con la degradazione che lei diceva è molto veloce, è chiaro che fa fatica ad avvenire, perché se io lo faccio con cultura in atto rischio di trovare i residui del prodotto nella cariosside che vado a raccogliere, sì. nel frumento che vado a raccogliere. Ma non voglio entrare nel merito del glifosato. Quando io parlavo di parità di condizioni, però lei intendevo dire che purtroppo abbiamo delle norme italiane e comunitarie che consentono di utilizzare certi principi attivi, certi sì. antiparassitari, E ci sono dei paesi in cui gli antiparassitari che possono essere utilizzati sono differenti. Io so benissimo che Felicetti e gli altri e tutti gli altri fanno le analisi, eccetera, eccetera. Però è già una distorsione della concorrenza il fatto che io non possa utilizzare un principio attivo che possono utilizzare in un altro paese. Ah, ecco, quindi, ma, messa così, io sono d'accordo, perché il problema qui è uno: o facciamo l'Europa davvero dei mercati uniti, allora definiamo standard comuni, o altrimenti, se però ci mettiamo da soli in condizione di inferiorità, secondo me facciamo autogol. Ripeto, nella tutela della salute, della sicurezza e della dichiarazione di ciò che si fa, non è che sto parlando di... Ecco, questo punto conclusivo però ci unisce tutti e tre. E mi dispiace perché c'era una sfilza di telefonate, però la questione, come avete capito, non è solo la banale obbligo di trasparenza, è capire bene di che cosa stiamo parlando. La pasta, però, quello che c'è dietro. Continuiamo sulla 24.